E lo confesso, questa volta non c'ho proprio un cavolo di voglia. Questa volta non c'ho proprio un cavolo di voglia di andare al Salone del Libro. Ma andiamo a comprare questi due biglietti, la tabaccheria è chiusa.